piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Lo spreco alimentare, che è una parte importante dello spreco, in Italia è assai rilevante, dal campo alla tavola, cioè da chi produce, azienda agricola, fino al ristorante casa nostra, vale circa 16 miliardi. Parte rilevante, 12 di questi 16, secondo le nostre stime, sta proprio a casa nostra, lo spreco domestico. Una famiglia italiana ogni anno getta via una quantità di alimenti che corrisponde a un intero cassonetto della spazzatura, vale a dire a 145 kg. Questo, Gabriella, vuol dire che lo spreco domestico corrisponde in un solo anno a una perdita secca di circa 13 miliardi di euro, che non sono bruscolini. C'è chi ha fame e chi butta il cibo. E non poco. A livello globale, un terzo del cibo prodotto per il consumo umano viene perduto o sprecato, per un totale di 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate all'anno. Con gli alimenti che si sprecano si potrebbe dar da mangiare a un terzo della popolazione mondiale. E sprecare non significa soltanto non avere cibo sufficiente per tutti, ma anche buttar via delle risorse preziose, come per esempio terreno fertile. Premetto, questa non è la solita trasmissione buonista che si fa sotto Natale: non sprechiamo il cibo perché con quello che noi buttiamo potremmo sfamare metà del mondo. È vero, non è che questo lo nego, ma oggi diamo un taglio differente a questo, che indubbiamente è un problema. Se sprecano ogni anno 15,5 miliardi di cibo all'anno, diciamo che evidentemente qualcosa non funziona, ma io penso si continuerà a sprecare, perché sai, siamo divisi in due grandi categorie che posso riassumere brevemente. Quelli che ci pensano, si pongono un problema quando fanno la spesa, quando mangiano, quando si siedono a tavola, quando comunque si approcciano con il cibo, pensano, dice, ma per educazione, perché hanno radici familiari che affondano nella guerra, nelle schede annonarie, nella carestia, in famiglie economiche che ti hanno insegnato di non sprecare mai nulla, non si lascia il cibo nel piatto, non si butta mai via il pane, se non c'è una cosa avanzata nel frigo bisogna consumarla perché è peccato, e via dicendo. Quelli che non gliene importa nulla, sabottano, poi prendono e buttano via, perché dice, ma chi ce ne importa, io l'ho comperato, il mio ormai ho già dato, diciamo, nella catena comunque degli acquisti ho già corrisposto chi produce questo cibo, quindi che mi importa, proprio può andare anche nel cassonetto. Noi oggi facciamo un'operazione diversa, non ci interessa né di fare la morale a nessuno, né di bacchettare, né di dire siamo buoni, ma non siamo buoni per niente. Nel cassetto della mia scrivania ci sono delle fette biscottate putrefatte, me le ero dimenticate lì e adesso sono verdi e stanno incamminandosi da solo verso il cassonetto, la raccolta differenziata, perché sono state ben educate. Beh, oggi noi vorremmo classificare gli italiani che ci ascoltano, quelli che in questo momento stanno per gettare la cipolla nell'olio che sta friggendo, quindi ci penseranno, butto una fettina in più di cipolla, uno spicchietto d'aglio in meno. Beh, fatevi un esame di coscienza e guardate se entrate in queste categorie che noi abbiamo esposto. In base a questo daremo un dato importantissimo a chi sta compilando il disastroso rapporto sullo spreco alimentare, per dire, beh, noi, questo è il nostro contributo allo spreco alimentare, questa classificazione di un campione medio di italiani per definire quali sono le categorie dello spreco. A tra poco. Secondo il rapporto ISPRA presentato recentemente al Ministero dell'Ambiente, in Italia lo spreco alimentare è arrivato alla cifra considerevole di 15,5 miliardi di euro all'anno. In Italia ogni giorno si sprecano 960 kcal pro capite, a fronte di una media mondiale di 660. Una delle componenti dello spreco alimentare nazionale è quello domestico. Dunque oggi vogliamo interrogarci sulla propensione degli italiani a non sprecare il cibo a casa. Chiamate all'800240024 e diteci se e come siete capaci di non sprecare cibo, in base a queste quattro categorie di consumatori alimentari. 1. Micragnosi preventivi. Comprate sempre porzioni di cibo ridotte per il numero dei commensali. Buttate meno pasta di quella che serve in un misero pentolino per risparmiare sull'acqua. 2. Maestri della polpetta. Siete dei perfetti riciclatori. Se avanza qualcosa di quello che mangiate e cucinate, sapete come riciclarlo. Fate polpette con bucce di patate e torsoli di mele. 3. Frigo pienisti. Il vostro frigo abbonda di cibame abbandonato e reietto, ma voi dovete vederlo sempre pieno. Quando cucinate fate porzioni extra di tutto, perché terrorizzati di alzarvi da tavola ancora affamati. 800240024, cosa siete voi? Micragnosi preventivi? Maestri della polpetta, frigopienisti? Cosa fate voi? Le porzioni proprio calibrate? Ma butta giù un'altra manciatina di maccheroni, ti prego. Ma no, questo basta. Ma perché poi le donne usano sempre delle pentole piccole per fare la pasta? Quando poi qual è lo spreco? Una pentola grande, una pentola piccola? Sempre dei pentolini dove galleggiano quattro spaghettini stitici e stanno lì pronti a dire: ma siamo soli, aiutateci, dateci qualche altro amico. E c'è sempre questi spaghetti, c'è un buco nello stomaco, ti siedi a tavola e vedi quel fondino di piatto con due spaghettini, dici: ma perché non hai buttato una manciata di pasta in più? Perché? Perché è una micragnosa preventiva. Il maestro della polpetta in realtà sa bene che comunque la tavola è sempre piena. Non è che sia proprio uno sprecone, ma nemmeno un econo, ma diciamo riesce a riconfezionare in maniera fantasiosa e delle volte anche abbastanza gradevole quello che c'è nel frigo. La sua specialità è la polpetta. Nella polpetta ci può stare di tutto. C'è polpetta mista di carne, pesce, latticini, formaggi, pasta. C'è la polpetta fatta con tanto bel pane e pochissima carne. Insomma, tutte le tecniche micragnose messe a punto durante anni di guerra rivengono fuori con una sorta di gusto vintage anche ai tempi nostri. Il frigopienista, devo dire che è una categoria che è la più deleteria ai termini di questa nostra ricerca, ma sono anche i più simpatici, sono quelli che perlomeno non si pongono problemi, dicono: vabbè, mangiamo, pensiamo a star contenti, allegri. Certo, apri il loro frigo, al di là della primo strato, nello strato più superficiale, fatto di cibarie allettanti, se scavi nel fondo entriamo nella zona obitorio, perché naturalmente trovate la mozzarella verde, il prosciutto ormai talmente incorporato con la carta che non si riesce a aprire più, la scatoletta aperta e richiusa con dentro il tonno che già sta con le sue pinne pronto a scattare fuori perché è risorto dopo anni di putrefazione, è risorto e sta uscendo fuori il tonno. Beh, a quale categoria appartenete voi? 800240024, Samuele. Pronto, buongiorno. Lei cos'è? Categoria, seconda categoria, polpetta. Maestro della polpetta. Ci spieghi esattamente qual è la tecnica del riciclo? Sì, a casa mia non si butta via praticamente niente perché lo odio. E niente, io perfino quando mangio la scatoletta di tonno, l'olio, quel giorno lo stesso mangio l'insalata e la condisco con l'olio del tonno. Con quell'olietto un po' rancidello in cui sta dentro il tonno? Sì. Vabbè, questo mi sembra un po' esagerato. No, ma è buonissimo, l'olio viene insaporito del tonno, è buonissimo. Quindi un'insalatina al tonno, poi vi dica degli altri segreti del riciclo. Non so, per dire, adesso non è un riciclo, però comunque anche quando compro, non so, il tubetto della maionese, compro sempre quello in gomma che si possa strizzare. Ah, certo. Perché allora lo consumo fino alla fine, mentre se poi prendo il barattolo, quello là di vetro, ne butto via un bel po' perché è attaccato sul vetro, non riesco a pulirlo. No, ma uno prende un cotton fioc e lo pulisce ben bene. Si potrebbe fare. Sì, si potrebbe fare. Certo, però il nome del riciclo. Va bene, Vania. Abbiamo già un punto per maestro la polpetta. Buongiorno. Vania, a quale categoria appartiene? La prima, micragnosa. Micragnosa preventiva. Ecco, lei usa dei pentolini piccoli per cuocere la pasta, vero? Sempre. Ma mi spiega perché? Allora, è facilissimo. Prima lei consideri che noi donne siamo sempre a dieta, perennemente, con un peso che deve aggirarsi intorno ai 60 grammi di pasta. Quindi le basta un pentolino. Ma scusi, ma una pentola più grande li può mettere lo stesso, stanno più, più comodi. No, ci vuole molto più tempo perché l'acqua bolla. Vabbè, ma che se il pentolino è piccolo l'acqua bolle prima. No, per perché guardi, scusi, 60 grammi di pasta, glielo garantisco, sono veramente un... La micragnosa preventiva mette il pentolino piccolo, ma anche sul fornellino quello per il caffè. Non si capisce perché, quando c'è un fuoco ultra rapido al centro della cucina che fa doppia fiamma con fiamma interna. Io fuoco ultra rapido, pentolino il più piccolo possibile per mettere quegli 60 grammi di pasta quando la faccio. Comunque micragnosa perché obiettivamente lo spreco anche oggi come oggi, soprattutto del cibo che non è a buon mercato se si vuole comprare. Ma mi dia un altro esempio di micragna per dare una lezione a chi ci ascolta. Per star dietro al signore con il tonno, io lo prendo sempre sotto vetro in filetti, quelli belli... non quello sfilacciato, quindi prendo magari un tonno da 40 euro al chilo sotto vetro, con l'olio d'oliva, quindi quello viene utilizzato. Sì. In più è anche vietato, ricordo, buttare l'olio alimentare nei rubinetti, cioè nei lavandini o negli scari. È vietato, Sì, sì, poi è proibitissimo, assolutamente proibitissimo. Infatti non lo faccio mai. Io ho un contenitore per l'olio del tonno, lo tengo lì e una volta l'anno... Una volta l'anno. Ma chi si chiama il tonnaro per portarlo via poi una volta che uno l'ha stoccato? No, ci sono delle raccolte apposta, le mette dentro le bottiglie di plastica. Non voglio fare pubblicità, supermercati di un certo tipo fanno la raccolta. Oppure dell'olio di tonno usato? Ma è fantastico. Non solo sì, fanno la raccolta perché poi lo riutilizzano per l'alimentare. Ma quando uno staglia le unghie deve tenerle da parte e poi riportarle da qualche parte? No, per capire. Le visto unghie no. No, le proprie, no, per capire. Perché visto che tutto non inquinano. Ah, vabbè. E invece faccio lo stesso con tipo il sott'olio, sì. Che magari non so chi è di giù, che ama le conserve delle melanzane, quelle con l'aglio, tutte le erbe. Sì. L'olio buonissimo, si può utilizzare per condire, spesso e volentieri c'è dentro anche del peperoncino, la pasta. Con l'olio riciclato delle scatolette. Beh, lei ha mai mangiato le melanzane tipiche tipo pugliesi fatte a listarelle? Sì, quelle al botulino che fanno le signore, poi te le mandano, meglio che non le mangi. Sì, le vendono anche al supermercato, ma sì, per intenderci quello dei suoi umarel femmina che fanno le conserve. Senta, se lei mangia una bistecca, per assurdo, l'osso che fine fa? L'osso va nell'umido. Ah, si butta via, non si riusa? No, io quello non lo perché uso. Magari tritato può venire una polverina e si fa una polpetta. Non ci arrivo. Non lo so, chiedo, domando. Quello no. Ho curiosità. Però la spesa è assolutamente contata e registrata, cioè è esclusivamente quello che può servirci. Siamo una famiglia di 3 persone, solo quello che ci può servire. Gli altri sono d'accordo, sì, su questa. Sì, scelta. Perché poi guardi, cambia sempre idea. Una sera ho voglia di una cosa piuttosto che un'altra, chiamo alle 4 prima di uscire dall'ufficio e dico di cosa avete voglia stasera. Ah, stasera voglio il pesce crudo, il sushi, tipo sushi o salmone affumicato. E si fa. Però vedi, questo accade perché nelle famiglie ancora c'è solo una persona delegata al cibo. Se ognuno fosse autonomo e si cucinasse da solo, ognuno si fa quello che vuole, sarebbe fantastico. Abbiamo questa ritualità che la mamma deve cucinare. Dove sta scritto? No, io non cucino. Per esempio questa cosa qua, tipo l'altra sera ha cucinato mia figlia, che ha 15 anni, assolutamente. Poverina, e cosa faceva? No, ha desiderato fare il sushi, la tartare di salmone e il sushi di tonno e ha chiesto, papà mi prendi questo e questo, papà è passato al supermercato, ha preso esattamente le dosi per 3 necessario. Persone per quello e così è stato fatto. Non è avanzata nemmeno una lischina di pesce, niente? No, perché erano già filetti. Ah beh, certo. Perfetto. Abbiamo fatto un cenone con tanto anche di vino, donna fugata. Donna fugata. E la bottiglia di vino con quell'avanzino di vino cosa ci si fa? Si fa l'aceto? No, a casa mia il vino non avanza. No, non lo so, lo mette da parte, tanti ci fa l'aceto, lo mette lì. Nel caso se avanzasse, ma non è mai successo, del vino ci si può fare un buon risotto il giorno dopo. No, con il vino avanzato, questo volevo spiegare. Che riso è il vino? Non esiste. Esiste il riso. Già, non ha mai mangiato il risotto allo champagne. Allo champagne, ma no donna fugata, non ho mai sentito il riso donna fugata. Donna fugata è comunque un vino bianco, se lei ci mette fa un risotto e i frutti di mare lo può fumare con... E se beve il vino rosso? Se faccio il vino rosso, dipende da che vino è, in casa mia magari si usa con i salumi, si può usare zona nostra, cioè ci sono degli ottimi Bonarda piuttosto che del Barbera, ma sono un po' mossi. Se e abbiamo si può utilizzare comunque sempre nei risotti o risotto al vino rosso, se lo sta inventando, non esiste il risotto al vino rosso. Non è vero, è la verità. Ci può fare la sangria, va, facciamo così, con le bucce delle mele e le avanzi della frutta fa una sangriglietta economica. Guardi, io la buccia la mangio, lo sa, a parte del kiwi o della banana che obiettivamente sono immangiabili, ma più la lavo molto bene, però la mangio. Ma come Pinocchio, dopo che l'ha mangiato la pera, no, mangia il torso. Insieme alla mela. Ah, tutto insieme, vabbè, basta, abbiamo capito. Rodolfo. Buongiorno. Scusi, mi sono soffermato perché era un esempio di micragna fantastica. Lei da che parte sta? Interessante. Lei pure micragna? Da consumatore, in particolare prodotto biologico, vado nei negozi specializzati, però cerco di acquistare quei prodotti logicamente in base alle mie esigenze, anche con le scadenze un po' brevi, magari certo non scaduti, preferirei, logicamente perché comunque i sprechi vengono fatti. Ah, quindi lei è un micragnoso scadenzista, prende le cose offerta speciale, sta scadendo fra 10 minuti, lo compra. Ma se viene consumato il giorno dopo non è quello il problema. Sì, sì. Certo. Logicamente, perché se poi io non faccio lo spreco, ma lo fa il supermercato, è comunque. Giustamente, giustamente. Quindi diciamo giocare anche sui tempi di scadenza. Dentro, anziché quello in plastica, adesso faccio qualche esempio così. Diciamo, e nel mio piccolo ho diciamo delle piccole accortezze per evitare sprechi sia in casa o quantomeno anche nel. Comunque, guardi, diciamo, tirando le somme, in questa prima tornata abbiamo un pubblico di risparmiatori. La micragna è imperversa, quindi dove sono questi che buttano al vento i 15,5 miliardi di cibo all'anno? Vediamo se tra poco li troviamo. Io, per esperienza, perché ho lavorato nei supermercati come responsabile, sì, ne ho vista di merce che viene smaltita e credo ancora tuttora viene. E dove la buttano poi? Cosa ci fanno? Viene smaltita nei cassonetti, perciò di conseguenza anche se uno ovviamente non lo fa in casa, ma comunque da qualche parte viene fatto questo scarto. E a volte io parlo personalmente, andare a cercare lo yogurt che sale da 20 giorni, quando lo devo consumare domani o dopodomani, posso prendere pure quello che scade da 3 giorni. Beh, io sono di quelli purtroppo che va sempre a cercare quelli nelle file dietro, sono inquattati dietro quelli a larga scadenza, perché lo so, i primi. Molte persone lo noto in supermercato. Anche io vado a scavare dietro, dico. L'ultimo arrivato perché è il più fresco, ma se viene consumato il giorno dopo, non credo che se ha 3 giorni di scadenza sia un problema. Guarda, io ho colto una signora giorni fa nel supermercato adiacente qui che stava scavando nel cesto delle banane. Erano appena arrivati. Ma perché scalci? Perché le più buone sono in fondo, queste qua sono le più vecchie. E che ci fa la banana fresca di giornata? Vabbè, fermiamoci un istante, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Chiamate all'800 24 00 24 e diteci se e come siete capaci di non sprecare cibo, in base a queste categorie di consumatori alimentari. 1. Micragnosi preventivi. Comprate sempre porzioni di cibo ridotte per il numero dei commensali. Buttate meno pasta di quella che serve in un misero pentolino per risparmiare sull'acqua. 2. Maestri della polpetta. Siete dei perfetti riciclatori. Se avanza qualcosa di quello che mangiate e cucinate, sapete come riciclarlo. Fate polpette con bucce di patate e torsoli di mele. 3. Frigo pienisti. Il vostro frigo abbonda di cibame abbandonato e reietto, ma voi dovete vederlo sempre pieno. Quando cucinate fate porzioni extra di tutto, perché terrorizzati di alzarvi da tavola ancora affamati. Con grande sorpresa, per qualcuno forse sarà anche motivo di vanto, stiamo scoprendo che il nostro pubblico è prevalentemente un micragnoso preventivo e un maestro della polpetta. La terza categoria a cui io appartengo, lo dico senza nessuna vergogna, del frigo pienista, non c'è nessun frigo pienista, quindi gli spreconi, coloro che contribuiscono all'immensa emorragia dei 15,5 miliardi dell'euro all'anno in cibo sprecato, non sono presenti o si vergognano di appalesarsi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, dottore. Io volevo dire che con l'olio riciclato ci si può fare benissimo il sapone. No, e come si fa? Mi spieghi? Con la soda e l'acqua, praticamente. Naturalmente con l'olio del tonno. Gli essenziali per profumare. No, perché dopo si lava con quello, sa di tonno per tutta la settimana. No, le garantisco che non sa di tonno. Pensi l'olio delle sardine, ma scusi, delle acciughe. No, l'olio delle sardine e l'olio delle acciughe no. C'è stata la mia signora che quando frigge, frigge una sola volta con l'olio e io lo conservo, lo metto, che lo ci metto fa? Da parte. E dopo averlo rifiltrato e ripassato un'altra volta, io con quell'olio ci faccio il sapone. E le garantisco che è un ottimo sapone. Io me ce faccio anche la barba. Poi. No, ma lei mi deve spiegare, cioè sua moglie si frigge, fa le patate fritte, il pesce fritto, i calamari fritti. Una sola volta con quel bell'olio fritto che ancora ci galleggia di pezzetti, gli scampoletti di ciò che ha fritto. Lei fa un bricolage domestico particolare. Lo passo in una calza di nylon. Quando è freddo, naturalmente. C'è una calza usata di sua moglie? Una calza usata. Sì, quindi già filtra dalla calza usata di sua moglie l'olio del fritto e poi? E poi lo metto da parte e poi con quell'olio ci stanno le varie... Ci fa il sapone, detergente. Naturalmente, con la soda Ah, una cosa imbarazzante, però. Scusi, detergente intimo alla patata fritta, cioè se l'immagina, cioè è ambiguo. Ma io sono d'accordo con lei, naturalmente. Però il nome qua, lei ha ragione, però io sono, mi attengo al mio ruolo scientifico di suscitatore di opinioni, quindi perfetto, lei ci dà un suggerimento che nessuno ha mai immaginato. Con un piccolo laboratorio da piccolo chimico si riesce a trasformare l'olio del fritto in un meraviglioso sapone. Bravo. Angelo. Salve, buongiorno, che piacere sentirla, la seguo da sempre, da quando la trasmissione si chiamava in un modo un attimino diverso ma simile. Sì. Voglio dire una cosa, io sono credo tra la seconda e la terza categoria. Oh, finalmente s'avvantaggia la categoria dei frigopienisti, è frigopienista lei? Esatto. Oh. Adesso le spiego anche perché. Io ho 55 anni, papà ha fatto, da ragazzino ha fatto, diciamo così, sul dire, la guerra. La fame, e tutto. Non terrorizzava, ma ci raccontava che cosa significava la fame. Lo so bene, lo so bene. E quindi mi raccontava che in convitto, avendo perso il padre in guerra, era festa quando si mangiava riso con piselli e vermi. Detto ciò, noi abbiamo sempre mangiato quello che nostra madre ci cucinava. Un giorno decisi di non mangiare, ma non ci furono tragedie. Ritrovai lo stesso identico piatto la sera e a 13 anni la fame mi fece mangiare quello che all'ora di pranzo non avevo mangiato. È come la fatina di Pinocchio. Pinocchio sbuccia le pere e poi cerca i torsoli. Senza tragedie, senza minacce. Vabbè. Detto questo, quando è cresciuto ho detto adesso basta. È successo questo, che con il benessere e ringraziando a Dio noi ce ne siamo sempre, come si dice a Napoli, ce ne siamo sempre visto bene, quindi in questo senso faccio parte della terza categoria, però sono anche un riciclatore. Io innanzitutto volevo dire alla signora, alla simpatica signora che ha telefonato prima, che io lo dico da napoletano, è impensabile poter in poca acqua cuocere la pasta. Ma lo dica. C'è una regola aurea che dice che per ogni 100 grammi di pasta ci vuole un litro d'acqua. Oh, se no facciamo il riso, sempre con questi pentolini piccoli o gli spaghetti spaventati. Di una tristezza infinita. Uno può anche mettercene poca, ma la pentola grande cosa costa? Sì, ci metterà due minuti in più a bollire. Anche perché o lavi una piccola, o lavi una grande, non vedo questa grandissima differenza. No, perché più piccola è l'idea del consumo limitato, no? Una pentolina di pasta. Poi a me la devo riprendere. Con il vino si fanno dei risotti. Sì, ma hanno scritto, sì, a radicchio e vino rosso, ma l'hanno detto. Ma no, ma con l'amarone, col barolo. Il problema è che in quel caso lì si va nella terza categoria, perché se voglio fare un risotto all'amarone, io apro la bottiglia per fare il risotto all'amarone, non rimarrà mai a tavolo un dito di amarone, può rimanere il tavernello, ma l'amarone sì, ma il tavernello, guardi, se vuole il tavernello ne trova cartoni buttati per terra qui nel portico davanti alla nostra radio, ci sono dei signori che dormono lì e passano la giornata lì. Secondo me il riciclo è la cosa più bella che c'è, cioè apre un mondo alla fantasia. Vabbè, Angelo, abbiamo capito, lei potrebbe intrattenerci fino alla fine della trasmissione, va benissimo, abbiamo capito, mi serve a questo punto Daniele. Salve. Lei a quale categoria appartiene? Io sono assolutamente un frigopienista. Oh, un frigopienista, dite, finalmente è arrivato. Io sono ho proprio liberato il frigo ieri, che era pieno di cose inenarrabili. Fino all'ultimo strato, quello della morte, naturalmente. Sì, quello della morte, quello che c'era lì da quando ho comprato casa, praticamente. No? Lo so, capita. Negli strati profondi del nostro frigo, sì, esistono degli zombie, è logico. Muffe che secondo me, che se studiamo possiamo anche trovare delle particolari vite. Ah certo, sono nuove. Delle nuove forme di vita, sicuramente sì. Sì, il mio frigo era pieno di panne aperte, però io sono un frigopienista, io lo devo avere pieno. Perché senta, il frigopienista quando si accorge che qualcosa non va, che c'è quell'odorino di formaggio stantio, di marcio, insomma. Sì. Poi sì. Non parliamo, la carne quando marcisce si sente. Ecco, quello è il momento magari di dare una pulita. Sì. Sì. No, dare una pulita. È il momento di tirare via quello che fa puzza e al massimo, ma la pulita la si dà una volta ogni 4-5 anni, massimo. Beh sì, in effetti. Non è che sia poi indispensabile. No, ha detto che anche lei appartiene a quella. No, io sono un super frigopienista. Sì, frigopienista. Ho dovuto recentemente smaltire, non potendo più farmi il margarita per motivi di salute, avevo dei lime che ormai erano diventati praticamente degli ananas, però diciamo che ho fatto pulizia, ecco. Le verdure sono quelle che marciscono più in fretta, che rimangono allo stato liquido. Ho trovato quelle che forse erano zucchine ieri, chissà. L'insalata quella nei sacchetti è bella, che l'uno l'apre, c'è solo liquame, è come aprire la busta di un cadavere. Certo, sì, liquame pure. Ma almeno vedi, rimane tutto nel sacchetto. La cosa brutta è che la zucchina invece si diventa un liquido che dopo non si capisce. Beh, vuol mettere le patate quando viene un albero praticamente dalla patata. Uno apre e si accorge che c'è un albero che esce fuori dalla patata. Quello è bellissimo. Vabbè, fermiamoci qua perché si presta a scurrili doppi sensi, quello stiamo dicendo. Emanuela, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Io credo di essere un po' tutte e tre, anche se con una prevalenza per le prime due. Non mi piace il frigo vuoto, per cui cerco di... Allora, di è frigopienista. No, non sono frigopienista perché non faccio marcire la roba in frigo, lo pulisco. E cioè mi piace vedere le cose in frigorifero, ma non in stato di abbandono, perché comunque poi io riciclo, cerco di non sprecare. Faccio perché il frigopienista ogni giorno rifà la spesa e la spesa nuova va a ammassarsi su quella vecchia. No, che frigopienista. Io faccio la spesa una volta alla settimana, riempio il frigo e poi cerco di finire. Ho un'idea grosso modo di cosa intendo cucinare quella settimana, poi capita l'imprevisto, capita la cosa, quindi devo comunque... Quindi lei, diciamo, è fluttuante, una categoria fluttuante. Io la classifico, diciamo, maestra della polpetta, perché in fondo gioca sul riciclo anche lei. Sì, gioco sul riciclo perché è utile. Poi alcune cose non è che serve riciclarle, hanno più utilizzi. Cioè se compri il pesce è meglio prenderlo intero, perché ti tiri via i filetti, con quello che rimane fai il brodo, lo congeli, lo puoi usare per fare un risotto di pesce. Sono il dio del freezer, è un utilizzo. Un giorno poi vi spiega la testa e la lisca di pesce surgelata quando la tira fuori. No, li cucino, li metto, ci faccio il brodo di pesce con la lisca, la testa, oddio, gli avanzi delle verdure, poi la filtro e congelo il brodo, per cui se poi voglio fare un risotto di pesce ho già il brodo di pesce. Cioè come fosse un ghiacciolo, si lecca il brodo, come funziona? Non lo so. Si mette nel microonde o nella pentola e si risquaglia. Si usa come brodo. La stessa cosa si fa col brodo di carne: se mi avanza il sedano, lo taglio già a pezzettini per il soffritto e lo congelo. Cioè, cerco di non sprecare. C'è un grande lavoro intorno al frigorifero. Ci fermiamo un istante, è troppo interessante, ma per certi versi fa passare l'appetito. A tra poco. Log. Chiamate all'800 24 00 24 e diteci se e come siete capaci di non sprecare cibo, in base a queste categorie di consumatori alimentari. 1. Micragnosi preventivi. Comprate sempre porzioni di cibo ridotte per il numero dei commensali. Buttate meno pasta di quella che serve in un misero pentolino per risparmiare sull'acqua. 2. Maestri della polpetta. Siete dei perfetti riciclatori. Se avanza qualcosa di quello che mangiate e cucinate, sapete come riciclarlo. Fate polpette con bucce di patate e torsoli di mele. 3. Frigo pienisti. Il vostro frigo abbonda di cibame abbandonato e reietto, ma voi dovete vederlo sempre pieno. Quando cucinate fate porzioni extra di tutto, perché terrorizzati di alzarvi da tavola ancora affamati. 800 24 00 24, andiamo veloci perché servono alcuni dati indispensabili per concludere quello che è il nostro rilevamento. Prevale comunque l'aspetto della conservazione, del riciclo, dell'essere micragnosi. Comincia il frigopienista però a avanzare come categoria emergente. C'è sempre un po' di titubanza per dichiararsi appartenenti a quella che è la categoria più colpevolizzante. In questo caso però abbiamo Enrico. Enrico, buongiorno. Buongiorno, frigopienista convinto. Frigopienista. Assolutamente, devo avere tutto. Cioè, non devo neanche vedere la luce quando apro le ante del frigo. Giustamente. Deve essere proprio il cibo che... E bisogna sempre ogni giorno riempire nuovamente il frigo finché ci sta. Allora, di solito siamo in due senza figli, facciamo una spesa grossa, importante, sì. E dopo una o due spese veloci per metterci dentro un po' tutto quello che manca. Va da sé che qualcosa va buttato via, ma cerchiamo anche di essere bravi. Mangiamo tutto. Non lasciate niente. Però l'impressione è che uno torna a casa e viene un ospite, c'è da mangiare qualcosa, apri il frigo, tutto quello che vuoi, c'è tutto. Tutto quello che vuoi, tutto, carne, verdure, affettati, formaggi. Mi capita di vedere il frigo vuoto, mi è venuto proprio una pressione al cuore. Cioè non... Che non c'è mai niente, che c'è stasera? Niente, apri il frigo, non c'è niente. Niente. No, non esiste. Cioè c'è le olive sott'olio, quattro olivette, due capperi, lo stracchino no, no, muffito, basta, niente, capito? Ma non si può. Frigo pienista, bene, Simone. Buongiorno Nicoletti, Simone da Torino. Innanzitutto abbraccio l'amico partenopeo perché ha detto, ed è vero, che il risotto con il vino rosso è eccezionale. Le do conferma. Da Torino noi facciamo risotto al Barolo con i chiodi di garofano, che è una cosa eccezionale. Però andiamo al sondaggio, grazie della nota gastronomica. Deve assaggiarlo Nicoletti. Guardi, okay. Non mi basta quel che mi resta della vita, no, per assaggiare tutto quello che dovrei assaggiare, le dico la verità. Senta, in allora, tutti i campi. Assolutamente categoria 2. Tenga presente, io sono un felicissimo divorziato single, quindi io il cibo lo considero solo per la sua parte essenziale. Quindi io adoro, polpettista, polpetta. Adoro il frigo vuoto, questa cosa le dico. Vabbè, visione metafisica del frigo, certo. No, nel senso che, ad esempio, anche quando vado a fare la spesa al supermercato, sugli yogurt le dico, prendo proprio quello che magari, se possibile, è già scaduto. Perché comunque mi sono autoimposto una dieta che mi ha dato dei grossi risultati. Così nemmeno lo mangio, già marcito e non no, lo mangio. No, anzi, il contrario. Cioè, lo yogurt si mangia scaduto, Nicoletti. Ah, certo, sì, da quella bella allora, dissenteria che fa tanto bene, certo. Bravo, perché poi vale in farmacia. Vabbè, fermo là. Qua entriamo in un ambito patologico che non posso sondare. Gabriella. Sì, buongiorno. Sì. Allora, cos'è? Io sono una sprecona per eccellenza. Oh, una donna frigopienista, è rarissima, guardi, è rarissima, devo lo dire. Non so, infatti io ho sentito la trasmissione, penso di essere stata l'unica. No, ma per noi frigopienisti equivale all'apoteosi della lussura una donna frigopienista, figuriamoci. È vero, ma ci si sente anche un po' sole, devo dire la verità. Io quando vado nelle altre case, anche di uomini, single, eccetera, oppure, cioè... mi sento profondamente a ecco, disagio. Quando apre il frigo di un uomo che lei va a trovare e vede che non c'è nulla. No, io vado in crisi. Basta, se ne va. Mi vengono bisogni che non ho mai avuto, tipo, non lo so, insomma, improvvise voglie di chissà cosa che ovviamente non c'è e quindi casa mia ci deve essere. Poi quindi vediamo l'emergente categoria del frigopienista come una categoria che in questo momento dimostra uno strato sommerso di italiani che vorrebbero ma non possono dichiarare il loro desiderio del frigo pieno e quindi bisogna riconsiderare anche il dato dei 15,5 miliardi perché evidentemente in qualche maniera è inquinato dalla reticenza nel dichiararsi frigopienisti per sempre.